La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Paroledistorie.net. Dedalo, il grande fabbro inventore. Dedalo era un grande fabbro inventore. La dea Atena stessa l'aveva iniziato a quell'arte. La madre di Dedalo si chiamava Alcippa. Del padre vi furono diversi nomi e attribuzioni, ma non si è mai saputo con certezza chi fosse. Tutti concordavano però che Dedalo appartenesse ad una stimata famiglia reale ateniese. Tra i tanti apprendisti allievi di Dedalo ci fu Talo, un nipote, figlio della sorella Policasta. In breve tempo, l'allievo superò in bravura e abilità, a soli 12 anni, il maestro zio Dedalo. Tante furono le invenzioni di Talo. Tra queste ci fu quella della sega per tagliare il legno. Il ragazzo aveva per caso raccolto l'osso della mascella di un serpente. Incuriosito proprio dalla sua forma, mentre l'osservava, intuì che poteva servirsene per tagliare un bastone a metà. Copiò il modello dell'osso in un arnese in ferro e inventò così la sega. Questa e altre stupefacenti invenzioni, tra le quali la ruota da vasaio e il compasso per tracciare i cerchi, gli procurarono una tale vasta fama ad Atene, e non solo, che lo zio Dedalo, che intanto rivendicava spudoratamente il merito di aver lui inventato la sega, divenne geloso. Troppo geloso. Si può parlare di invidia. Un giorno Dedalo ebbe una terribile idea. Si fece accompagnare da Talo sul tetto di un tempio di Atena, posto sull'acropoli ateniese, e, indicando qualcosa su nel cielo, invitò il nipote ad osservare quel qualcosa che si muoveva stranamente veloce tra le stelle. Il giovane Talo sollevò subito lo sguardo pieno di emozione, ma, ahimè, mai avrebbe sospettato che lo zio Dedalo potesse spingerlo d'improvviso con forza giù dalla rupe. Così fu che Dedalo uccise il nipote Talo. Le voci del popolo dissero poi che non era stata solo l'invidia ad impadronirsi di Dedalo. Egli aveva pure il sospetto che Talo avesse rapporti incestuosi con sua madre, Policasta. Dedalo corse giù dall'acropoli, prese il corpo del nipote e lo chiuse in un sacco. Quindi si avviò verso il deserto, dove seppellire Talo. Mentre si avviava di tutta fretta, alcuni amici passanti chiesero a Dedalo cosa trasportasse in quel sacco di così pesante e perché andasse così di corsa. «Oh beh, un grosso serpente! Eh sì, ho ucciso un grosso serpente! E come la legge vuole, debbo portarlo nel deserto e ucciderlo!» si giustificò Dedalo. Ma durante la corsa, tanti notarono che il sacco mostrava delle evidenti e vistose macchie di sangue. Alle grida della gente, le guardie fermarono Dedalo, aprirono il sacco e scoprirono il corpo martoriato del giovane Talo. Dedalo fu incatenato e processato. L'Aeropago, il tribunale ateniese, stabilì la condanna dell'esilio per Dedalo e dopo qualche giorno il fabbro inventore fu cacciato dalla città di Atene. Intanto l'anima di Talo si involò sotto forma di una pernice, mentre il suo corpo veniva sepolto. Policasta, la madre del giovane, appresa la notizia della morte di Talo, invasa dal dolore, si impiccò. Alla sua morte, gli ateniesi innalzarono un tempio in suo onore. Dedalo, esiliato dalla città, si rifugiò a Cnosso, nell'isola grande di Creta, dove il re Minosse fu ben lieto di accogliere un così bravo fabbro artista. Dedalo visse a Cnosso per un bel po' d'anni, rispettato e onorato, e soprattutto ben pagato. Ma quando Minosse, come già sappiamo, scoprì che Dedalo aveva aiutato sua moglie Pasifae ad accoppiarsi con il toro bianco di Poseidone, lo rinchiuse nel labirinto del Minotauro insieme al figlio Icaro, un fanciullo di straordinaria bellezza che Dedalo ebbe da una delle schiave di Minosse. Ma Dedalo sapeva bene come uscire dal labirinto mortale del Minotauro, dato che era stato lui a progettare e costruire le migliaia di stanze e percorsi infiniti da cui era impossibile venirne fuori. E così partire fuggitivi dalla grande isola di Creta non era facile impresa, perché Minosse fece sorvegliare tutte le navi, offrendo persino una ricompensa consistente a chi avesse catturato Dedalo. Fu allora che Dedalo, il grande fabbro inventore, costruì, pensate, un paio di ali proprio per sé e un paio di ali per il figlio Icaro. Raccolse in segreto grandi sacchi di piume di cigno, le intrecciò con dei lacci di radice e le saldò tra loro con della cera d'api. Dopo aver legato le ali alle spalle di Icaro, Dedalo gli disse: «Mio caro figliuolo, ti prego, stai accorto, non volare mai troppo in alto, perché il sole farebbe sciogliere la cera, né troppo in basso, perché le piume potrebbero essere bagnate dal mare e diventare pesanti». I due, padre e figlio, indossarono le ali, fissandole al petto con delle grosse cinghie di cuoio. Dopodiché si alzarono in volo. «Seguimi, figliuolo, e stammi vicino! Andremo lontano da quest'isola maledetta e saremo finalmente liberi, liberi!» Il vento sollevò leggero padre e figlio, sostenuti dal battito di grandi ali bianche. I pastori, i contadini e i pescatori guardarono in cielo ed ebbero grande commozione, tanto che pensarono fossero davvero degli dèi in volo. I due fuggitivi lasciarono alle loro spalle Nasso, Delo, Paro e l'isola tutta, e quando furono in mezzo al mare, Icaro, spinto dalla baldanza dei giovani, volle salire più su, in alto, disubbidendo al padre, verso la luce del sole, salì e sentiva d'essere così veloce da afferrare l'aria con gioia. Il padre Dedalo, mentre era in volo, ad un certo punto vide tantissime piume bianche che parevano un tappeto fluttuante galleggiare sull'acqua. Icaro non si vedeva più. I raggi potenti del sole avevano sciolto la cera e il ragazzo era precipitato in mare. Dedalo volò a lungo, chiamando il proprio figlio. La disperazione stava nel suo animo. Girava intorno, volteggiava, planava veloce, quasi a lambire le acque, finché il corpo di Icaro, inerme, apparve sull'acqua del mare. Dedalo volò verso il figlio, lo sollevò in silenzio e lo portò in una vicina isola, che poi fu chiamata Icaria, dove lo seppellì. Proprio nell'atto di ricoprire di terra il figlio morto, Dedalo vide una pernice poco distante, appollaiata sul ramo di un pino, che lo osservava con un ghigno storto. Pareva cantasse quasi di gioia, soddisfatta. Era l'anima quella della sorella Policasta, finalmente vendicata. Nello stesso tempo in cui fu sepolto Icaro, Minosse organizzò una spedizione navale per dare la caccia a Dedalo. Portò con sé in una sacca una conchiglia di mare. Nei porti in cui approdava, prometteva una lauta ricompensa a chi fosse stato capace di far passare in quella conchiglia, da un capo all'altro, un filo di lino. Minosse sapeva bene che soltanto Dedalo ne sarebbe stato capace. Giunto a Camico, la conchiglia fu proposta al reggente Cocalo e Cocalo la passò a Dedalo, che subito legò un filo a una formica. Praticò poi un forellino sulla punta della conchiglia e nell'altro forellino spalmò del miele. La formica corse verso il dolce miele, si intrufolò nella conchiglia e fece passare così facilmente il filo di lino, sino all'estremità dell'altro foro. Cocalo portò la conchiglia a Minosse, chiedendo la ricompensa promessa, e Minosse, certo di aver trovato finalmente il nascondiglio di Dedalo, dopo aver pagato Cocalo, ordinò che gli fosse consegnato il grande fabbro inventore. Ma le figlie di Cocalo e non volevano separarsi da colui che costruiva per loro splendidi giocattoli e bambole, e proprio con l'aiuto di Dedalo tramarono la morte ai danni di Minosse. Mentre il re di Creta, ospite della casa di Cocalo, stava nella stanza da bagno per lavarsi, Dedalo introdusse un tubo nel tetto e attraverso quel tubo versò acqua bollente su Minosse. La sua morte fu atroce. Il cadavere di Minosse venne poi restituito ai soldati cretesi con la notizia che il loro re, ahimè, dopo la cena ed aver bevuto un po' assai, fosse inciampato accidentalmente in un sandalo da bagno ed era caduto nel calderone d'acqua bollente che intanto scaldava sopra un tripode accanto alla vasca. Qui si conclude il destino di Dedalo, il grande fabbro inventore ateniese. Avete ascoltato Mitologia, storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net. Registrazione effettuata presso gli studi della Piccola Sartoria dei Teatri.